Italia in controluce. Buona mattina, oggi è il 9 di febbraio della prima edizione di Italia in controluce. In studio Daniele Biacchessi. Vivere in montagna, lontano da tutto per fare il pastore, è la scelta controcorrente di un ragazzo di Biella che ha lasciato la scuola, gli amici, il papà chirurgo, la mamma insegnante per seguire la sua passione. Ci racconta la sua storia Maria Luisa Pezzali. 16 anni. Tempo di amici, di sogni, passioni, dubbi, scelte, sballo e disagio per alcuni, tempo difficile per tutti. Per Andrea Maffeo è stato il tempo di scegliere una vita controcorrente, lontano dalla famiglia, padre chirurgo e madre insegnante, dal suo contesto sociale, dalle comodità, dalla scuola, dagli amici e dai riti collettivi dell'adolescenza. Andrea ha scelto di fare il pastore nel biellese, terra di filati di pregio e antiche tradizioni. Per 2 anni ha seguito come garzone Niculin, un vecchio pastore del posto che gli ha insegnato il mestiere. Poi, non senza discussioni, ha comunicato in famiglia che dalla sua decisione non tornava indietro. Oggi, a 18 anni, ha un gregge tutto suo, 300 pecore, una vita fatta di pascoli solitari e notti in baita o in roulotte. Tanta fatica e tanto freddo, tempo libero zero. L'unica cosa che rimpiange della vita di prima. Magari mi manca un po' il tempo libero, perché qui il tempo libero non ce n'è. Mi piacerebbe magari prendere una giornata e andare a fare un giro, ma non l'unica cosa sarebbe un po' quella. Non è che puoi staccare tanto, ecco. Non puoi prenderti degli impegni fissi, perché non si sa mai cosa può capitare. Magari c'è una pecora che deve partorire, allora devi star lì e... Oppure non hanno mangiato sufficienza la sera, loro magari la sera invece che chiudere una certa ora le chiudi più tardi e non puoi mai prenderti dei impegni fissi. Il tempo libero non c'è, perché purtroppo tutto il giorno sei dietro qui le pecore al pascolo e non riesce a trovarlo. A scuola Andrea proprio non stava bene, il banco per lui era una prigione, gli mancava l'aria. Tornava a respirare solo quando con il nonno andava in montagna, dove poteva sentire l'aria. Ed è proprio questo il titolo del film documentario e del libro fotografico che racconta la sua storia. Una sorta di romanzo di formazione per immagini firmato dal regista Manuele Cecconello, che insieme all'operatore Claudio Pidello e al fotografo Andrea Taglier, per 2 anni, in mezzo ai boschi e ai campi, ha seguito il percorso di un adolescente verso la consapevolezza, alla ricerca di una nuova identità a contatto con la natura e con gli animali. Quando ero più piccolo, diciamo, quando ero ancora bambino, proprio piccolino, quando passavo delle giornate in montagna con mio nonno, che andavamo su in montagna, magari stavamo soltanto 3-4 ore, andavamo a mangiare su e poi venivamo di nuovo giù nel pomeriggio, sentivi che la differenza che c'era fra la montagna e la pianura, e quindi sentivi, magari vivevi tanto quel momento di tranquillità, ti accorgevi rispetto alla vita normale che era tutto un altro mondo vivere, ecco. Io per il futuro spero di andare avanti con il mio lavoro, perché ho tanta passione, mi piace. Al giorno d'oggi è un po' dura vivere su questo campo, anche perché non c'è più una resa, con le spese che bisogna fare fra la montagna e le medicine per le bestie o anche la tosatura, e trovare i pascoli per mantenere tante bestie così un po' dura, ecco. Non ci sono più gli spazi per tutti e non riesci, no, a tenerne di più di questo numero che ho io. Nell'ambito di un progetto di recupero e valorizzazione dell'economia tessile e delle lane autoctone voluto dalla Camera di Commercio di Biella, Andrea ha anche creato un piccolo marchio di prodotti tessili. Si chiama Grushkach. È un dialetto che si usava una volta fra i pastori, vuol dire pastore valido, pastore che sa apprezzare le sue bestie, che non le lascia mai da sole, dorme sempre dietro, e che cerca di curarle, non farle fare la fame, ecco. un pastore che vive per il suo gregge, non uno che le tiene soltanto, come si può dire, al giorno d'oggi, visto che ci sono i contributi, ci sono tante persone che comprano le pecore, le mucche, e le comprano soltanto per prendere determinati soldi, contributi e convenzioni che vengono date. Qualche notte Andrea torna a casa dai genitori, guarda un po' di TV, aggiorna la sua pagina Facebook, ma non dorme tranquillo, pensa alle sue pecore. Non ha rimpianti, la sua non è stata una fuga. Andrea non è in esilio, ha solo trovato il posto dove essere felice. Forse se avessi finito la scuola sarebbe stato una cosa magari più giusta, ma se io non ero portato per andare a scuola, poi non me la sentivo, e quindi alla fine per star lì e vivere male o andare a fare un altro lavoro che non te la senti di farlo, sono contento della scelta che ho fatto e non tornerei indietro. È una passione che ho, stare delle ore a guardare sempre le pecore, a pascolare, o l'aria ti trasmette tante cose, ti fa pensare anche com'è la vita e come se entrassi in un altro mondo e dentro quel mondo lì vivi, pensi, hai soltanto in mente i bei momenti, le belle cose, che magari vivi soltanto quell'attimo di tempo in cui c'è. E stai bene, vivi quel momento lì come se fosse magari proprio un sogno, si può dire. E magari ti metti giù tranquillo, ti riposi un attimo e sentire quella l'aria che ti arriva in faccia o sul viso, così ti viene voglia di addormentarti, pensare come se fosse un paradiso, di essere arrivato in paradiso, te le bestie. Poi io non so cos'è che possono provare le bestie per quel momento lì. Termina qui la prima edizione in Italia in Controluce. L'archivio delle puntate lo trovate tutto sul nostro sito radio24.it e sullo stesso sito il blog di questo programma. Su Facebook oltre 1800 contatti per Radio 24 Italia in Controluce. In Controluce su Twitter 1309 al momento. La mail controluce radio24.it. La mia voce torna oggi 13:30 su Radio 24.